Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Chi è? Parola d'ordine. Imbecilli! Apri, è uno che conosco io. Inventarsi Renzi da qui al 4 dicembre, se regalerà una bicicletta a tutti i bambini i cui genitori dimostreranno di aver votato sì. E poi noi non diciamo no per lasciare le cose così come stanno. Io penso che si debba ragionare a una riforma condivisa. Noi quindi diciamo no a questa riforma perché dopo il no sia possibile approvare tutti insieme una riforma vera, diversa. Perché paradossalmente potrebbe consegnare a un solo uomo e a un solo partito l'Italia e gli italiani. Da qui al 4 dicembre, di una cosa ho paura, che ci troveremo Renzi a fare le previsioni del tempo e a commentare le partite della domenica. Io devo avvertire Paolo sotto corona, allora. È ovunque. Eh sì, state attenti. Come detto settimana scorsa, non è che Salvini non appaia in TV, non è che Salvini sia esente da questa cosa, però è tornato Berlusconi soprattutto, ma l'avete sentito al TG5 con delle risposte abbastanza fiume. È tornato Berlusconi. C'aveva un viso terreo, nel senso di con un chilo di terra, ma c'era Silvio Berlusconi che è tornato a dire il no al referendum, mentre dall'altra parte del mondo c'era chi diceva sì. Obama. Oggi ci sono ben due titoli. Referendum, Obama vota sì, prima del Messaggero, prima del Giorno, il sì di Obama, vota sì, ma vota allora Obama. Ma non lo sapevo. Ma com'è? Perché in questi accordi NATO c'è Obama che può votare al referendum in Italia? Beh, c'è da dire che la giornata di ieri Renzi non se la scorderà per un bel pezzo, Matteo, chiamato così, e poi Obama che dice siamo per la stabilità, in America vogliono mica i cambi di governo, gli due per due, e poi c'è anche questo aspetto internazionale non di poco conto, per esempio lo dice La Stampa, Obama ha chiesto un maggiore impegno all'Italia per la Libia. E un altro aspetto internazionale, Obama sa bene che gli altri, non Renzi, ma gli altri italiani sarebbero più pro-Putin. E invece l'America vede in Matteo Renzi colui che è il più stabile e solido alleato. E allora, avanti così. Tu vuoi fare americano, americano, americano. americano. Devo dire che è una giornata che è iniziata un po' strana, eh? C'ho il cellulare mio che è impazzito, mi segnala che la strada costiera è libera dal traffico, ma io sto a Milano e questo è un mistero che mi porterò per tutta la giornata. La strada costiera mi segnala, e quello del traffico, è libera, potrei farla, non so, forse potrei costeggiare i navigli. Sto a Milano, cellulare a Milano, la strada costiera. So, potrei, stando magari a Roma, pensare alla strada costiera. E c'è la strada costiera a Roma, cara Paoletta Saluzzi? C'è la strada costiera. Buongiorno. Buongiorno. Saluzzi. Siete meravigliosi. Ma vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia a casa di Sigla. Paola. Sigla. Sì, andremo tutti quanti a casa di Paola. Ma tutti insieme a lei tutto il giorno. Tutto il giorno. Si fa, certo, da mangiare, tutto il giorno. Mentre si lava. Ehi, birichino. Mentre gioca con il gattino. Mentre parla con lui. Oh, che meraviglia. Che meraviglia. Sì. E alla sera. Allora, sera, strada costiera. La copertina. Aspetta, la copertina. Buonanotte, Paolina. Con la nuova stagione. La copertina. Cambia il tuo c'era, modo di vivere. C'era la scusa, c'era la copertina. La copertina. Ti rimetteremo tutti la copertina. Vabbè, vada. Ho coperto la copertina. Cioè, imperdonabile. Chiedo perdono. No, ma va, va, va. Allora, questa strada costiera. Buongiorno. Esiste? Strada costiera? No, non credo, non mi risulta. Secondo, insomma, una strada che porta alla costa, almeno una strada che porta verso il mare, ecco, sì, diciamo. Quella c'è, ce ne sono due, ecco. Ce ne sono due, sì, sì. La vecchia, che è pericolosissima, che porta al mare, e la Cristoforo Colombo, che sta lì. Da lì e fa il suo mestiere, insomma. Sì, ci ho detto, avere la notizia della strada costiera a Milano è singolare, ma tu sei a Lino Milano. No, insomma, infatti. Senti, ma non possiamo votare anche noi in America se il presidente Obama infatti, vota? Infatti, esatto. Ma secondo me sì, sarebbe. Facciamo uno scambio. Secondo me dovremmo tutti partecipare alle elezioni del presidente degli Stati Uniti. E ovviamente si sa, la Saluzzi vota Trump. Cioè, guarda, proprio certo. garantito al limone. No, assolutamente ecco. No. Allora, eccoci qua. Allora, insieme a Paola Saluzzi, che voglio ricordare alle 10 in onda su Sky, voglio ricordare anche il nostro, e salutare più che ricordare, il nostro direttorone Luca Dini, direttore di Ventifero. Buongiorno. Buongiorno, ma ricordami pure. Vogliamo ricordare dei nostri pensieri, dei nostri affetti. No. Qui è lotta insieme a noi il nostro Luca Dini. Buongiorno, intanto. Tu voti in America? Buongiorno. No. Magari. Voti. Ecco, vedi, ma tutti che c'è la nostra fregola. No, nel senso che per questo. Di fronte a questo referendum, sì, a volte vorrei votare anche in Kazakistan. In Kazakistan, però. Va bene. Cioè, chissà se si vota in Kazakistan alle presidenziali, però insomma, va bene così. Dai, andiamo ad aprire il Parlamento ufficialmente. Prendete un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Forza, forza, gente! Allora, il trionfo da Obama. Matteo Renzi. Ma tra l'altro io non lo so, Paola, Benigni ha fatto qualche piazzata delle sue o si è comportato tutto a posto? Dunque non saprei, anche se quest'ora del mattino è l'ora giusta per sapere le cose in America. Vogliamo anche dire che, stabilito che questi non sono dei free dinner o free lunch, nel senso che è politica, quindi si fanno queste cene perché si chiede ovviamente qualcosa e si discute di politica, però insomma è stata una cosa importante portare quella parte d'Italia alla Casa Bianca, no? Cioè, portare Bebe Rio, portare Viola Gianotti, portare due premi Oscar, Roberto Benigni col capolavoro della Vita è Bella e Paolo Sorrentino con quel capolavoro che è La Grande Bellezza. E poi Cantone Giusi c'è sempre. Nicolini, Cantone, Raffaele Cantone, Dio benedica che c'è, Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa. Cantone secondo me gli hanno offerto anche alla Casa Bianca, dice risolve tutto, ci risolva qualcosa. Magari, non so. Il problema degli immigrati col Cantone. Texas. È uno di quei casi di persona che andrebbe clonata senza... Cioè, voglio dire, è stata una cosa importante per l'Italia, se no rischiamo di, come dire, vilire, sto parlando non della parte politica, sto parlando dell'Italia che veniva rappresentata, no? Ma su questo non c'è dubbio, ma anche dal punto di vista politico. È una cosa importante essere invitati e poter discutere, è il governo di quel momento nel tuo paese che va a parlare al Presidente degli Stati Uniti. Come dico sempre io, dipende dall'inquilino della Casa Bianca molto spesso l'onore, nel senso dipende dall'inquilino che c'è, preghiamo, ma perché sia sempre un inquilino degno. Sì. Ecco, però potendo è stata votare. Una cosa importante, no? Assolutamente, ecco. Sì, io credo che anche dal punto di vista politico, siccome c'è un referendum alle porte, va bene, ma a parte tutto Renzi fa bene, insomma, fa notare che è stato invitato, ultima cena prima che Obama lasci la Casa Bianca, o no, Luca Dini? Poi adesso ci sono le polemiche sul fatto, sfruttiamo l'immagine, ma sì, un po' di propaganda anche a dire ecco Obama, anche Obama vota sì. C'è, però voglio dire, infatti, guarda, sicuramente Obama ha fatto questa cosa perché sapeva che c'era il referendum. Cioè, a volte veramente sono colpito dalla provincialità dei media italiani. Cioè, non è che queste cose succedono perché Renzi ha chiesto un favore. Cioè, è veramente, scusa, trovo ridicola la cosa vota sì, vota no. Cioè, è gli Stati Uniti vogliono stabilità, è una cosa che sappiamo da 100 anni, e che vogliono un governo credibile anche, insomma. Ma certo, ma Berlusconi certo. Si dovrebbe anche ricordare delle famose email dove veniva fuori quello che pensavano gli ambasciatori americani in Italia di lui, Ma come, nel momento in cui mi torna Silvio Berlusconi, tu così è riapparso in TV, però era così, è riapparso in TV. Dopo che si diceva ma come, è per il sì, è per il no, è riapparso, invece niente. Non è apparso con questa verve, effettivamente, con un po' di meno di verve. Me lo stronca così il nostro Luca Dini. Va bene, ma insomma, al di là di questa cosa di Obama, qui invece si discute molto della manovra. Secondo Repubblica, l'Unione Europea ha pronta già la lettera di richiamo, cioè o l'Italia cambia la manovra entro una settimana oppure c'è la lettera di richiamo. Ma l'intervista del giorno, l'intervista, signori, è a Diego Armando Maradona. Il Corriere della Sera intervista Maradona, che tra l'altro dalle risposte mi sembra di poter dire che sia un'intervista più a lui, all'avvocato, perché fa delle risposte che discetta di fisco come manco un dribbling e tiro all'incrocio ai bei tempi, e mi sembra un po' dubbia questa cosa di Maradona. Maradona dice: non devo nulla all'Italia. Caro Luca Dini, se tu ti aspettavi qualcosa di Diego Armando Maradona, sappi che... No, ha detto non devo nulla. No, si è un po' arrabbiato perché effettivamente sui giornali è passato come il condono Maradona, no? La questione di Equitalia, via le multe, via gli interessi di mora, via Laggio, il condono Maradona. Effettivamente mi sarei arrabbiato un po' anch'io così, no? Tu Luca, no, sembra che... Mi sembra un omaggio, insomma, no. Dovrebbe essere contento. No, infatti, mi addebitano da 25 anni una cartella che supera i 40 milioni di euro. Sai che ha detto anche Paola Saluzzi? Ti ricordi il famoso video in cui fece il gesto dell'ombrello a Equitalia? Sì. Dice non è vero, non l'ho mai fatto. Ma dice, ma come, ma c'è il video? L'ho fatto a me stesso. Stavo facendo il gesto dell'ombrello a me stesso. Io so che ha litigato la sera della partita della pace. No. Però rientro un po' nel personaggio, dai, via, è così. Ecco, la sera della partita della pace, toni, parolaccia, no. sei indispettito con un collega e compagno di tacchetti, e va bene, e il personaggio è questo, d'altronde è Maradona, non mica stiamo parlando di Don Bosco. Don Bosco, no. Vabbè, comunque, scusate. Sentite qui Crozza, no, perché voglio chiedervi, secondo voi, se adesso c'è tutto il dibattito, se sia un condono oppure no, anche togliere, per esempio, togliere tutte, se le toglieranno poi, tutti questi tassi di interesse per chi non ha ancora pagato una tassa e invece chi l'ha già pagata con i tassi, con tutte le more, con l'aggio, chi è il più fesso, come al solito, e quindi in Italia si dibatte, è condono o no. Crozza la vedeva così ieri. I condoni ne abbiamo avuti altri 5, uno con Spadolini, uno con Andreotti, uno con Dini e due con Berlusconi nel 2003 e 2009, però almeno Berlusconi era onesto, li chiamava condoni, non aiuti alle famiglie, era onesto, che cazzo ho detto, cosa ho detto? Ho detto onesto? Ma capite cosa mi fa dire Renzi, ministro? Mi fa dare dell'onesto a Berlusconi? Siamo al paradosso! Vabbè, questo è Crozza al solito. Non so, Paola, è un condono questo secondo te oppure, oppure no? È un dibattito che oggi c'è molto. Ma era sicuramente una revisione del concetto di Equitalia che andava fatto. Andava fatto da chi, insomma, andava fatto, punto. No? Sì, l'approccio. Poi, se corrisponde ad un condono, boh, so ben io come risponderti, Alino. Non sono io a poterlo dire, ecco, siamo di ecumenici. No, è chiaro, cioè, la questione... è una revisione comunque che andava fatta, no? La questione è che chi ha pagato però, che ne so, una cartella con tanto di tasse, con tanto di more, con tanto di agio, con tanto di tassi interesse, con tanto quindi di multa, magari si sentirà un po' gabbato tutto qua, ecco, cioè la sensazione... No, sera avrei potuto pagare ora invece di pagare prima, ma non si poteva assolutamente... magari prima, ribadisco, è una rivisitazione o se vuoi più che cancellazione è ridisegnare che cosa sia Equitalia, sì. Adesso al di là del condono Maradona, mi pare che lo chiedessero tutti, no? No, ma è chiaro che poi sarà, non sarà un condono Maradona, però pare che di quella cartella di 40 milioni contestata gli interessi di Maradona siano, cioè le more siano 35 milioni e quindi un po' di condono almeno per Maradona lo sarebbe, anche se lui dice che non deve una lira. Non so, non tu, Luca Dini, hai qualche cartella esattoriale da pagare arretrata? No, io no. Vabbè, potevi tenerla adesso così. Sono d'accordo con Paola, cioè non si può un giorno gridare al fatto che Equitalia fa suicidare le persone e poi il giorno dopo gridare al fatto che qualcuno la cancella o la sostituisce. Dopodiché io non amo mai queste cose, sono molto onesto perché sincero, perché non... Perché appunto chi ha pagato, cioè, diciamo che ci dovrebbe essere perlomeno in concomitanza un premio per chi si è sempre comportato bene. Sì, c'è sempre la sensazione che in Italia si debba comunque mettere mano a queste cose perché ci sono un bel po' di persone, alcune per carità non possono pagare, non ce la fanno, ma anche molti furbetti che non pagano e quindi bisogna mettere mano sempre a queste cose. Insomma, capitali rientrati, eccetera, eccetera. Esatto. Adesso c'è l'ultima lista. L'emersione del contante. Vogliono beccare le banconote da 500 euro. A casa Saluzzi ci sono i materassi pieni di banconote da 500 euro. Non diciamolo neanche per scherzo. Dobbiamo andare al traffico. Poi, Paola, gradiremmo un caffè qui. Se tu la tua macchinetta è o un caffè o un editoriale di Caterina. O Radio Caterina. Va bene, o Radio Caterina, va bene, tra poco. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... E ragazzi, mi sa che io voto no. È che D'Alema, come Bersani, non se l'aspettavano che Renzi prendesse il loro posto. Milan! Stiamo come un cazzo quando fornesce. L'autobiografia di Icardi. 23 anni. La carta costa. La carta costa. Look at him, he's young, handsome, he's put forth a vision of progress. That's not rooted in people's fears, but rather in their hopes. Questo l'endorsement di Obama a Renzi, giovane, bello e sportivo. Oh, va bene. Devo dire che però l'autobiografia di Icardi, guardate, Massimo Gramellini scrive oggi sulla stampa che bisognerebbe dare il Nobel per la letteratura a Icardi, capito? Capito, caro Luca Dini, sai perché? No, altro che a Bob Dylan. Altro che a Bob Dylan, perché è l'unico che è riuscito a far leggere un libro a quelli della curva. Cioè, è riuscito in un'impresa incredibile a diffondere la letteratura. Adesso, letteratura, un libro, diciamo, eccolo così. Oddio, diciamo, mi è entrato D'Alema dentro. sentite qua il caffè. Ma io ieri, da ieri, ho iniziato questa rubrica. Caro Luca, sai qual è questa rubrica? No. Lo psicologo di D'Alema. Allora, lo psicologo di D'Alema. Oggi eleggo psicologo di D'Alema Luca Dini. C'è il D'Alema del giorno, perché lo psicologo di D'Alema ci deve spiegare effettivamente quale sia il problema di D'Alema. D'Alema. Io, finito il referendum, tornerò pienamente al mio lavoro. Eccolo qua. Allora, caro dottor Luca Dini, psicologo di D'Alema, qual è il problema di Massimo D'Alema? Ci può il lavoro. ci può illuminare? Vuole chiedere alla collega dottoressa Paola Saluzzi? No, magari. Scusate, un attimo, devo fare due cose. La prima, questa, il caffè. Caffè, sì. La seconda, lascio assolutamente il ruolo di psicologo di D'Alema. Ma no, ma come? Ma qua abbiamo degli psicologi impreparati, non hanno studiato a fondo la psicologia. Serve lo psichiatra. Ecco, va però, bene, serve lo psichiatra. No, io invece ho un'altra cosa da dire, importante, la devo dire. Io questa sera alle 18... alla libreria Feltrinelli di via Vittorio Emanuele Orlando, i romani sanno dov'è, siamo davanti al Grand Hotel, sono con Francesca Del Rosso e con Rossella Brescia a presentare il libro di Francesca Del Rosso, storia di due amiche per Ma la tieni lì 10 giorni? Non la tengo lì 10 giorni, no, ci saranno folle che lo vorranno, ma alla fine dovrà tornare dai suoi cuccioli e da un tale Alino Mondan. Porca la miseria, vabbè. Ecco, volevo dire questo. Volevo la restituisci, dire... la restituisci. Sì, la restituisco, non solo dell'anonima, non faccio sequestri. Vabbè, niente. Però volevo dirvelo. Va bene, ecco. Allora l'hai detto, però qua gli psicologi di D'Alema niente, siete stati impreparati. No, io volevo dire solo, volevo sapere qual è il lavoro di D'Alema, a parte il rompiballe. No, come rompiballe? Direttore. Direttore, ma insomma... Ma torno a fare il mio lavoro. Non lo so, a parte che fa il vino è presidente della fondazione dei socialisti, non lo so, europei, non lo so, comunque signori, va bene, gli psicologi niente. Allora noi dobbiamo andare a salutare un ascoltatore che ci segue dall'estero. Assolutamente, perché come sapete vi scoviamo voi che ci seguite dall'estero, e oggi andiamo dal nostro Andrea, che mi dicono che viva a Madrid ma si sposta anche a Londra. Dove, Andrea, dove sei? Sì, buongiorno da Londra stamattina. Ah, da Londra, stai fermo un attimo, insomma ti sposti, però tu Madrid o Londra ci segui sempre? Mi seguo sempre, nei posti più strani, addirittura prendo un volo appositamente per poter ascoltare la prima mezz'ora. Vabbè, Andrea, adesso questa non ci crede nemmeno Paola Saluzzi, questa no, non Andrea, ci crede. Un caro saluto lunedì mattina. Un caro saluto, questa ti è uscita benissimo. Per renderla credibile. Cioè, è vera, o se è vera hai bisogno altro che dello psicologo di D'Alema. Tu hai bisogno. Andrea, che fai a Madrid? Ma io mi occupo di pagamenti digitali, quindi lavoro un po' tutta Europa e sì, vivo a Madrid per avere la miglior qualità di vita possibile, ma mi sposto spesso per l'Europa e fuori dall'Italia da 22 anni. Vabbè, però dici la notizia di cui si parla a Madrid, dai, in Spagna, di cosa si parla in questo momento? Si parla a Madrid del fatto che comunque si rigiri, entro fine mese la Spagna avrà un governo. E questa è una notizia incredibile, visto che da mesi e mesi che la Spagna deve al secondo pareggio praticamente credo che non avranno la possibilità di votare di nuovo, perché la gente non vuole andare a votare il 25 dicembre, sarebbe la data in caso di terza elezione. Sì. Ricordiamo che è proprio così, noi ci lamentiamo perché c'è il voto a dicembre, ma lì voterebbero, nel caso di non accordo, il 25 di dicembre, caro Luca Dini. È bellissimo, perché cade l'appuntamento elettorale. Andrea, ti dobbiamo salutare, un grande abbraccio, prendi sempre aerei spostandoti, mi raccomando, tenendo conto degli orari, dalle 7:30 alle 9, fuso orario, fai i calcoli, aerei, controlla, è tutto. Caro Luca, vabbè, io qui ho la copertina di Vanity Fair, tu dovresti assistere alle scene quando Lorenzo Nespoli arriva me le porta, che mi fa in 7 secondi il sunto. Allora c'è Miriam Leone, ex Miss Italia, adesso ha fatto un film con Piff e tra poco sui Medici la potrai vedere.